Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. I giochi olimpici sono un serbatoio incredibile di grandi storie, di grandi imprese sportive, ma anche di umanità, anche perché queste imprese hanno assunto naturalmente significati diversi da quello esclusivamente sportivo, a seconda del periodo storico, del contesto politico, con magari delle nazioni coinvolte nell'organizzazione dei giochi. Pensiamo ovviamente subito alla Germania nazista che organizzò i giochi di Berlino del 36. Insomma, i giochi olimpici sono parte della storia del Novecento, parte integrante, e lo spirito dei giochi olimpici è in qualche modo è riuscito a aleggiare anche attorno a sommovimenti politici, a guerre, a atrocità, e più si va ritroso nel tempo, più si trovano storie che acquistano un valore ancora più alto, perché gli atleti delle Olimpiadi più lontane nel tempo non gareggiavano per ottenere, non so, contratti milionari dagli sponsor, ma proprio esclusivamente per la gloria, per la passione. E oggi noi torniamo in quella edizione così particolare delle Olimpiadi, quella che ci ha raccontato tante storie di eroismo sportivo, anche di senso, di resistenza, di umanità, e sto parlando ancora una volta di Berlino 36. E questa volta Berlino 36 la vedremo con gli occhi di una ragazzina di Bologna, una ragazzina che in quell'edizione ha corso più veloce di tutte e ha regalato all'Italia la prima medaglia d'oro vinta da una donna. Ma soprattutto raccontiamo la storia di una donna che ha vinto contro i pregiudizi dell'epoca. Insomma, erano anni in cui la donna la si voleva in casa a rammendare, a cucire, a crescere i figli. La donna che ha saputo dire di no a tutto questo risponde al nome di Ondina Valla. Siamo a Bologna, via della Ferriera, quartiere Santa Viola, prime luci dell'alba, nella casa di Gaetano Valla, di professione fabbro, viene alla luce una bella bambina, 20 maggio 1916. Finalmente, pensa al padre, una femmina dopo quattro maschi, e lui naturalmente, come tutti i padri, vede la figlia bellissima, la vede come una principessa delle favole e pensa che per lei ci voglia un nome speciale. Trebisonda Onda... Onda Ondina, mi hanno chiamato Ondina perché il nome era troppo lungo, Trebisonda. Eh sì, è proprio dalla voce della diretta interessata che scopriamo l'origine di questo strano nome, Ondina Valla. Il padre la chiama Trebisonda, la leggendaria città turca che viene spesso associata alle favole delle mille e una notte. Perdere la Trebisonda è quando vedi qualcosa di bellissimo che ti fa impazzire. E lei è una bambina allegra, magrissima, nasconde una grande vitalità, è studiosa, le piace la scuola, ma il suo momento è quando arriva la tanto agognata ora di educazione fisica. Lì Ondina si lascia andare e si diverte a provare ogni disciplina dell'atletica che i suoi insegnanti le propongono: corsa, salto in lungo, salto in alto. A 11 anni lei si sta già distinguendo da tutte le sue compagne. Arriva il momento della prima manifestazione sportiva che mette a confronto i bambini delle scuole elementari. E ricordiamoci che siamo nel 27, il fascismo ormai impera, e come tutte le dittature, insomma, che si basano anche sulla forza fisica, guarda con occhio molto attento alle manifestazioni sportive, vede nei giovani una rappresentazione di come deve essere l'Italia, un'Italia forte e vincente. E Ondina Valla attira subito l'attenzione di un tecnico che assiste alla manifestazione. Lui si chiama Francesco Vittorio Costa, ha un passato da atleta. Ondina ha 11 anni, nel salto in lungo salta già 3,52 m. Nel 29 lei è già alle prese con altre gare interscolastiche, e Costa è ancora sugli spalti dello stadio Littoriale di Bologna, quello che oggi si chiama Dallara. Ondina vince nel salto in lungo e nel salto in alto, ma non è la sola bambina che si distingue, ce n'è un'altra. Si chiama Claudia Testoni, un'altra studentessa, e tenete a mente questo nome, perché le due diventano subito amiche, ma anche rivali, e con due vite che scorreranno per molto tempo in parallelo. Bologna in quel momento sembra essere un terreno fertile per l'atletica, così Leandro Arpinati, che è il podestà di Bologna, comincia a promuovere lo sport, organizza incontri internazionali con la Francia, con la Gran Bretagna, con la Polonia, con la Cecoslovacchia. E Ondina e Claudia sono allenate dal capitano Costa, hanno l'occasione di provare a vincere non solo per se stesse ma anche per la loro patria, e questo era naturalmente uno degli insegnamenti principali nelle scuole dell'epoca. La Valla è stata la rivelazione della giornata e ha assai favorevolmente impressionato anche i tecnici e le concorrenti estere. È giovanissima, non avendo ancora compiuto i 13 anni. Ha saltato 1,35 m in alto e 4,72 m in lungo. Misure meravigliose per un elemento così giovane che, unitamente alla sicurezza dello stile, testimoniano di una classe così sicura da consentirgli, a maturità atletica raggiunta, le più grandi speranze, purché, si intende, non abusi della sua energia. Questo è il resoconto del resto del Carlino, parole importanti perché stiamo parlando di una ragazza di 13 anni che corre con le scarpe da ginnastica e su di lei cominciano a puntarsi le speranze dell'atletica bolognese e poco dopo di quella italiana. Certe prestazioni cominciano a fare sperare bene, perché qua si stanno cercando atlete per andare a difendere i colori dell'Italia nell'edizione di Los Angeles del 32 delle Olimpiadi. Nella marcia di avvicinamento ai giochi del 32, Ondina Valla entra ufficialmente nella squadra di atletica italiana e ha solo 14 anni e ci entra in diverse specialità, e il salto in lungo, che allora si divideva in salto in lungo con la rincorsa e anche senza rincorsa, il salto in alto con rincorsa ma anche il salto in alto da fermo, insomma erano anni in cui l'atletica aveva ancora tipi di specialità particolarissimi, e poi c'è la corsa, soprattutto gli 80 metri ostacoli, e lei lì raggiunge dei grandi risultati. Questo la rende una delle atleti più promettenti della squadra italiana. Sette discipline, tra i 100 metri, il salto in alto, il salto in lungo, la staffetta, gli ostacoli, quindi in effetti era molto poliedrica. Eh sì, anche se gli 80 ostacoli sono la sua specialità principe, in realtà lei è molto versatile. A parlare, a raccontarci questo era Luigi De Lucchi, che è il figlio di Ondina Valla, ma non è ancora il momento di parlare della sua famiglia, perché in questo momento lei è una bambina sulla quale si stanno riponendo speranze di conquistare una medaglia per una donna italiana alle Olimpiadi di Los Angeles. Però sono anni particolari per la politica italiana, ci sono delle situazioni che vanno a ripercuotersi sulla carriera di questa ragazzina, perché nel 29 vengono siglati i patti lateranensi, quindi vengono disciplinate le relazioni tra lo Stato italiano e il Vaticano dopo le ferite della breccia di Porta Pia, ci si riconcilia, Mussolini si riconcilia col papato, c'è Pio XI e lì partono queste ingerenze del Vaticano nei confronti della politica italiana, ingerenze insomma che succederanno anche negli anni successivi, anche recentemente. Ma al di là di questo, il problema è che viene segnalato che sarebbe sconveniente fare partecipare delle donne alle Olimpiadi di Los Angeles, soprattutto una ragazza di 16 anni molto carina. Insomma, il Vaticano in qualche modo mette i bastoni tra le ruote al sogno di Ondina, che non sale su quella nave, sulla nave che porta gli atleti in America. È la più promettente stella dell'atletica italiana, deve rinunciare alle Olimpiadi, un colpo d'ala verso il basso, ma un colpo di macete sulle ali, direi. Però lei è molto giovane e probabilmente il destino le darà una seconda occasione, andiamo a vedere se è così. Nel 33, per esempio, le viene concessa una deroga speciale per partecipare ai giochi internazionali universitari di Torino e lei vince 4 medaglie d'oro nei 100 metri, nel salto in alto, nella staffetta 4% e naturalmente negli 80 metri ostacoli, insomma ha una marcia in più. E in quelle gare gareggia anche la sua amica rivale Claudia Testoni. Nel salto in lungo è la Testoni che vince e la Valla arriva terza. È insomma è una rivalità che continua e comincia a interessare tutti gli italiani. Alla stampa piace molto accostare Ondina Valla e Claudia Testoni, e intanto entrambe rappresentano quella giovinezza così decantata nelle canzoni dell'epoca, sono un esempio per le loro coetanee, sono un simbolo che il regime vuole mostrare al mondo. A Los Angeles il Vaticano era riuscito a impedire la partecipazione delle donne, però per le successive Olimpiadi la posta costa è più alta. Si va a Berlino dall'alleato principe, cioè da Hitler, e Mussolini vuol far bella figura. Sarà lui a decidere chi dovrà partire e chi dovrà restare a casa. Allo stadio Berta, signorine Gabrik, Bullano, Testoni, Agorni, Valla e Duvillard, prescelte a rappresentare l'Italia a Berlino, danno un saggio delle loro doti atletiche. Nella 100 metri ad ostacoli si affermano la Valla e la Testoni. 3 anni lunghi e difficili quelli che portano alle qualificazioni per le Olimpiadi di Berlino, e lì la Valla continua a alternarsi alla vittoria proprio con lei, con Claudia Testoni. Per esempio la Testoni è imbattibile nel salto in lungo e la Valla arriva sempre dietro alla Testoni. Negli 80 metri ostacoli invece c'è la classifica opposta, la Valla vince, la Testoni arriva seconda. Insomma, entrambe sanno di avere la loro grande occasione, l'occasione di dimostrare di essere le migliori, di vincere per l'Italia. E poi sono motivate dalla loro amicizia, perché dai banchi di scuola loro stanno arrivando in Germania davanti a quello che è considerato uno degli uomini più potenti del mondo, il Führer, anche se poi per loro tutto si ridurrà a un campo di terra battuta, 8 ostacoli da superare, oppure un asse di battuta, una buca piena di sabbia. E poi dietro a tutto questo c'è il sogno di vincere 2 medaglie d'oro. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ondina Valla, la giovane atleta bolognese, una poco più che una bambina, che sta per difendere i colori dell'Italia nelle gare di atletica alle Olimpiadi di Berlino del 36. È una ragazza molto solare che sta condividendo questo sogno, questa passione per l'atletica, con un'altra campionessa, sempre di Bologna, Claudia Testoni. Le due hanno visto nascere questa amicizia proprio dai tempi della scuola, sono state unite da un destino che le ha messe una di fronte all'altra, le ha fatte diventare rivali ma anche amiche, e adesso ci siamo. Entrambe sono state scelte per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi. Sta per iniziare il momento più bello, più emozionante della loro vita. Sono 7 le ragazze che partono da Milano in treno per arrivare a Berlino, 5 atlete più 2 riserve, però in realtà le uniche 2 che hanno qualche chance di vittoria sono le 2 amiche bolognesi, Claudia Testoni e Ondina Valla. Lei è primatista nella corsa a ostacoli, primatista italiana, nel 35 ha vinto 24 volte, però nelle ultime gare è sempre arrivata seconda, ovviamente perché prima arrivava la Testoni. Il 5 agosto del 36 cominciano le fasi eliminatorie, la Testoni vince agevolmente la sua batteria, poi risponde la Valla vincendo la sua batteria. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per alimentare la stampa e anche per attendersi una grande sfida finale. Poi ci sono le semifinali, la Valla abbassa il tempo della gara a 11.06, che è il nuovo record del mondo, è un grandissimo risultato, è una gara perfetta. È forse un po' troppo per una semifinale nella quale bastava arrivare tra le prime 3. Lei invece affronta la gara come se fosse una finale e passa gli 8 ostacoli in un attimo, con 3 passi a ostacolo. 3 passi all'ostacolo, 3 passi all'ostacolo, 3 passi all'altro ostacolo, 3 passi all'altro ostacolo. Sono le 17.30 del 6 agosto 1936, siamo all'Olympiastadion di Berlino, il Führer è in tribuna. Ondina Valla si è presentata alla partenza della finale degli 80 metri ostacoli, è in 4ª corsia, in seconda c'è Claudia Testoni e poi ci sono altre 2 concorrenti molto forti, la tedesca Stoyer e la canadese Taylor, ci sono 80.000 persone sugli spalti. Ondina è un po' preoccupata perché ha speso troppo, si è resa conto, la semifinale col record del mondo è un buon viatico ma potrebbe averle fatto consumare troppe energie. Prima della finale l'allenatore, il massaggiatore, pensò bene di darle qualche trolletta di zucchero dovuto nel cognac, e questo è vero, perché allora questi erano, diciamo, i doping di allora, comunque gli integratori di allora. Testoni scatta e salta davanti al primo ostacolo. Rimonta la forte Taylor mentre la Valla e la Stoyer sono alla pari, ma la Valla giunge prima al traguardo. La partenza è un po' lenta, la Testoni invece è partita bene, è in testa, poi ecco la progressione di Ondina, tre passi ostacolo, la cantilena che lei ripeteva negli allenamenti viene ripetuta 8 volte durante la gara, le fa crescere di ritmo, gli ultimi metri dopo l'ottavo ostacolo sono lunghi, ci sono 4 atlete che si gettano sul filo di lana, ma lei si è buttata avanti col petto, quel tanto che basta per arrivare prima delle sue avversarie, ci vuole il photo finish per decretare il vincitore, ma il pubblico sente che ha vinto lei, ripete a gran voce il suo nome, Ondina Valla. Dopo alcuni minuti l'ordine d'arrivo appare nel tabellone dell'Olympia Stadium. Erste Valla Italien, zweite Steuer Deutschland, dritte Taylor Canada. Questo breve frammento tratto dal capolavoro Olimpia, il film di Leni Riefenstahl, è scritta una pagina importante della storia dell'atletica italiana. Prima Ondina Valla, seconda Annie Steuer, terza Elizabeth Taylor, non l'attrice ovviamente, e quarta Claudia Testoni, che rimane fuori dal podio, ma la medaglia vinta da Ondina Valla ha un significato enorme, è un grande colpo d'ala, la prima medaglia d'oro femminile vinta da un'italiana ai giochi olimpici. Il falco e il gabbiano. Si torna in patria con la medaglia d'oro al collo, ci sono inviti, incontri, Mussolini ha bisogno di eroi positivi, di giovani atleti che rappresentino la forza, l'audacia del popolo italiano, e lei è così, è una donna forte, una donna vincente. Il 5 settembre tutti gli atleti che si sono distinti alle Olimpiadi di Berlino vengono ricevuti dal Duce a Palazzo Venezia, e tra questi c'è anche lei, Ondina Valla. Poi nei mesi successivi cominciano i problemi fisici alle ginocchia, però riesce ancora a ottenere un importante traguardo nel salto in alto, ce lo ricorda ancora il figlio Luigi De Lucchi. Lei nel 1936 vince la medaglia d'oro a Berlino sugli 80 metri ostacoli, prima donna italiana, nel 1938 per l'ennesima volta batte il record italiano nel salto in alto, che resterà imbattuto fino al 1956. 1,56 m in alto, e in quei tempi insomma erano ottime misure, 2 centimetri in più dell'amica rivale Claudia Testoni. Lei ha adottato una nuova tecnica, la sforbiciata, che è una tecnica particolare, e il record resisterà 18 anni. Nel 1943 Ondina Valla si ritira dall'attività agonistica, si trascina da troppo tempo quel mal di schiena, e lei va all'Istituto Rizzoli di Bologna da Guglielmo De Lucchi, che è un medico specializzato nella cura degli atleti, e qui succedono due cose. Una è non positiva, insomma il problema non viene risolto. L'altra invece è una cosa ben diversa, i due si innamorano, dopo neanche un anno si sposeranno, pasta e fagioli come menù del ricevimento, e poi in viaggio di nozze in bicicletta da Bologna a Padova. Pensate, una campionessa olimpica che va in viaggio di nozze in bicicletta. Insomma, veramente altri tempi. Nel 1945 nasce il loro unico figlio, che è Luigi, e sentiamo ancora una volta la sua testimonianza, il piacere di aver vissuto con una madre così particolare. Beh, momenti ce ne sono tanti, certamente quelli più belli sono quelli, poi se vogliamo, della mia adolescenza, in cui mia madre mi incoraggiava a fare lo sport, mi incoraggiava nello studio, eravamo anche più vicini, era una madre molto affettuosa, una madre anche premurosa, era anche una donna molto moderna, una donna, una madre non di quelle chiocce, ma di quelle, diciamo, abbastanza rispettose anche delle personalità del figlio, per cui godevamo al tempo stesso. Io crescevo in un ambiente familiare tradizionale ma anche molto moderno. E loro sono una famiglia che viaggia molto per l'Italia. Guglielmo è un medico affermato, viene trasferito spesso, si va a Pescara, poi a Salerno, poi a Chieti, e poi alla fine l'Abruzzo diventa la seconda terra nel cuore di Ondina, oltre naturalmente alla sua Bologna. Nel dopoguerra Ondina Valla si sta dedicando alla famiglia, si sente parlare di lei solo in rare occasioni, magari quando arriva qualche importante evento sportivo in cui viene riproposta la sua impresa di Berlino. Poi ci sono dei giornali di gossip che parlano a volte della fine della sua amicizia con Claudia Testoni, e il motivo sarebbe l'invidia da parte della Testoni per una medaglia persa al photo finish. È una notizia assolutamente falsa e lo conferma Luigi De Lucchi, il figlio di Ondina. Questa storia della rivalità è giustissima, ma dell'inimicizia, erano due donne atlete, tutte e due bravissime, rivali nella gara ma amiche nella vita. Quando poi è venuta meno Claudia Testoni, mia madre è stata molto triste e poi tutte le interviste ha sempre detto che appunto la scomparsa di Claudio con Claudia scompariva una delle cose più belle della sua vita, insomma, quindi un'amicizia molto forte. E nel 1978 c'è un altro momento triste della vita di Ondina Valla. Entrano i ladri in casa e rubano tutti i trofei, rubano anche la medaglia d'oro di Berlino. Rimane solo una custodia vuota. Poi Primo Nebbiolo, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, qualche anno dopo regalerà a Ondina Valla una riproduzione identica alla medaglia di Berlino. Però certo non è la stessa cosa. Ondina Valla muore a 90 anni nel 2006 nella sua casa abruzzese, allo stadio di Bologna. C'è una targa commemorativa che ricorda l'oro di Berlino. In una aiuola c'è ancora quella quercia che le era stata regalata durante la premiazione assieme alla medaglia, una quercia che Ondina aveva voluto piantare vicino allo stadio dove aveva raccolto le sue prime vittorie. Beh, è una quercia, forse è il paragone migliore per definire una donna che è stata una grande atleta, che ha vinto i pregiudizi di un'epoca che l'avrebbe voluta relegata dentro le mura di casa a fare la moglie e la madre. Ha fatto la moglie e la madre molto bene, ma soprattutto ha gettato quelle radici profonde nello sport italiano che altre atlete dopo di lei, non molte per la verità, ma altre atlete hanno coltivato e hanno ottenuto successi dei quali siamo tutti orgogliosi. Colpi d'ala che servono anche a essere emulati e a creare una scuola. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalate via mail al Falco e il Gabbiano altre vicende che volete che noi si racconti per voi. E poi seguitemi sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se mi cercate sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.